come ghiaccio, bocca come gesso, mano sulla canna, dito sul grilletto. Anna in mezzo al campo con i fagioli intorno, lei ride col fuoco, lei parla col piombo. Anna, oh oh, la mola c'ho il badil. Anna, oh oh, c'ha il fusil, c'ha il fusil. Anna, oh oh, che me ha bisogno di dir. Anna, oh oh, c'ha il fusil, c'ha il fusil. Yo. Aveva sguardi da dare in pasto ai cuori, e un uomo dentro i sogni che poi trovò anche fuori. Così imparò i suoi baci, percorse la sua pelle, poi vennero le sberle e ombre alle sue spalle. Anna, oh oh, la mola c'ho il badil. Anna, oh oh, c'ha pascia il fusil, c'ha pascia il fusil. Anna, oh oh, che mi ha bisogno di dir. Anna, oh oh, c'ha pascia il fusil, c'ha pascia il fusil. Seppellì giù sotto l'etame. Anna col fucile sparò tutto quel sogno, prese quel fucile e non lo posò mai.